Smart City. Voci e luoghi dell'innovazione. Di Maurizio Melis. Buonasera e benvenuti a Smart City. Chiudiamo questa settimana di programmazione speciale dedicata al mondo dei droni con un tema di grande fascino, quello delle cosiddette auto volanti, scenario che sembra essersi avvicinato con la diffusione dei droni. L'auto volante è una di quelle previsioni della fantascienza che non si sono mai realizzate, con grande disappunto degli appassionati del genere e anche insomma di chi sogna di saltare le code, il traffico a pie pari. Tuttavia nell'ultimo anno ci sono stati molti annunci in merito, tanto che uno dei nostri ospiti più frequenti e anche più illustri si è sentito in dovere di fare qualche precisazione che si è poi tramutata in un articolo uscito sulla stampa. Allora diamo il benvenuto, anzi il bentornato a Carlo Ratti, buonasera. Buonasera a tutti. Allora, direttore del Sensible City Lab del Massachusetts Institute of Technology e uno dei massimi esperti di Smart City in generale, direi, dei processi di innovazione. Dunque Carlo, dicevamo intanto di questa sequela di annunci, c'è Airbus che annunciato l'auto volante, c'è Uber che ha fatto lo stesso annuncio, gli Emirati Arabi vorrebbero i taxi volanti entro il 2020, il mese scorso una società tedesca, la Lilium, ha annunciato di essere praticamente pronta con il proprio mezzo. Tu invece sei scettico per varie ragioni, la prima, lo sostieni nel tuo articolo, è di ordine proprio fisico. Sì, ma allora innanzitutto bisogna dire un aspetto molto importante, che i droni come quadricotteri, cioè questi elementi con quattro eliche, sono effettivamente molto più facili da controllare di un elicottero. Quindi è vero che proprio grazie ai quadricotteri abbiamo tutta una nuova famiglia di oggetti molto più facili da costruire, perché hanno quattro eliche uguali, a differenza dell'elicottero che ha dei meccanismi molto complessi con due eliche di solito perpendicolari. Inoltre ci permettono di essere controllati molto meglio, quindi l'elettronica controlla ogni motore indipendentemente e facilmente permette di farlo spostare. Quindi diciamo è vero che i quadricotteri hanno aperto una nuova generazione di veicoli volanti piccoli e grandi e potenzialmente anche sì di veicoli che possono rimpiazzare un elicottero. Però direi da questo immaginare che domani le nostre città siano piene di questi oggetti volanti ne passa. Ecco, intanto appunto dicevamo per ragioni fisiche, cioè è vero che questi hanno quattro eliche, ma rimangono degli elicotteri da tutti i punti di vista, no? Consumo di carburante, per esempio. Assolutamente sì, io oggi sono qua a New York, sono vicino a Union Square, andando un po' più giù nell'isola c'è proprio uno degli helipad che serve Manhattan, dove vedete già oggi ci sono magari nei periodi di punta un elicottero ogni qualche minuto che prende il volo, ma il rumore è intollerabile, così come lo spostamento d'aria. È proprio un motivo fisico, tenere delle grandi masse pesanti a mezz'aria vuol dire in realtà usare moltissima energia e spostare tantissima aria. Diciamo che da questo punto di vista la tecnologia del quadricottero non sposta il problema, no? Consumo energetico, rumore e quant'altro. E quindi diciamo il primo motivo è proprio legato alla fisica, quindi avere questi oggetti a mezz'aria, ma poi legato alla fisica ma anche legato alle normative, immaginate che anche soltanto ogni tanto uno di questi oggetti caschi giù per terra, e questo capita. A Manhattan molti anni fa è stato chiuso uno degli helipad centrali, più centrali, proprio perché un elicottero si è schiantato ed è finito giù in strada. Ecco, allora immaginate di avere, oggi ne abbiamo decine, ma immaginate di averne migliaia o certo, decine di migliaia, che vorrebbe dire quello che sarebbe necessario per la mobilità di una città come questa. E questo vorrebbe dire una vita impossibile, ma anche il rischio che ogni tanto uno caschi sulla testa sulla testa di qualcuno che sta sotto. E ancora una volta diciamo che questi quadricotteri forse aumentano la sicurezza per molti versi, anche perché per esempio avere più eliche è una buona notizia nel caso se ne rompa una. Però ecco, non risolvono in modo definitivo questo problema. Invece quale potrebbe essere quindi uno scenario possibile per questi, chiamiamoli così, taxi volanti? Perché qualcuno probabilmente comunque li farà. Io credo che i droni avranno molto successo, proprio il fatto che siano così facili da costruire e controllare rende molto utili in tantissime applicazioni, ma io vedo più i droni intanto a livello piccolo, anche in città, immaginiamo delle piccoli droni che possono misurare la qualità dell'aria nel caso di eventi di sicurezza, possiamo immaginare i droni come già si usano oggi, con magari una telecamera per vedere cosa sta succedendo. Possiamo immaginare i droni che vanno in giro per gli edifici per fare un rilievo, insomma il drone geometra. Tutto questo saranno nuove applicazioni e avranno molto successo. Quello che io temo non avremo sarà quell'immagine che risale ormai agli anni 30, sì, quell'immagine di Metropolis, il film di Fritz Lang, con questa grande metropoli e tutti questi oggetti volanti costruiti dall'uomo. Insomma, i taxi, droni, volanti saranno probabilmente una cosa da sceicchi. Chiudiamo, Carlo, con uno dei tanti progetti che ti vede impegnato. Questo riguarda Torino, naturalmente, per stare in tema c'è di mezzo un drone. In questo caso però l'obiettivo è artistico. Sì, e come dicevamo prima, ecco, i droni invece leggeri per fare cose diverse potranno avere moltissime applicazioni. In questo progetto che stiamo facendo sia a Torino sia a Berlino abbiamo messo insieme 4 droni. L'idea è di controllarli, abbiamo stato sviluppando insieme all'Istituto Boeil gli algoritmi per controllarli in modo molto preciso, e questo vuol dire ad esempio usare i droni come dei graffitari. Immaginiamo una grandissima parete urbana, immaginiamo il telo di un cantiere. Magari a 30 metri d'altezza, no? A 30 metri d'altezza per andare a scrivere su questa parete e trasformarla in una grande opera collettiva. Grazie Carlo Ratti. Grazie, a presto. Va bene, ci fermiamo qui, si chiude il nostro speciale dedicato ai droni, appuntamento con la solita programmazione settimana prossima. Buon fine settimana.